Già dopo la partita a Milano ho detto che comunque come mi è disturbato adesso. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'apertura di Juan Zapata, grande azione, Ilicic! Poker servito di Ilicic dell'Atalanta, 4-3 al Valencia, una grande bellezza questa squadra. Quando ho detto più sono vecchio, più sono buono, è la cosa vera. Mi diverto, mi dispiace che calcio purtroppo si gioca senza pubblico. Proviamo a dare tante soddisfazioni a tutti quelli che stanno a casa. Fare così tanti gol, spesso 4, è veramente qualcosa di particolare, di straordinario. Atalanta non è più una sorpresa, il nostro obiettivo è far vedere che ci meritiamo stare dove siamo adesso e che non ci vogliamo fermare mai. Molto felici di quello che abbiamo rappresentato, soprattutto per un territorio che soffre così tanto. So che tanta gente ci ha seguito, ci sono arrivati messaggi anche dalla direttrice dell'ospedale di Bergamo e tanta gente che insomma a casa non può festeggiare, però voglio dirgli che avremo tempo, festeggeremo magari a giugno, fine campionato, non lo so, faremo un grande festone per tutto e anche per questo pericolo che sconfiggeremo. Allora, dentro brilla meravigliosamente la stella dell'Atalanta e dentro all'Atalanta quella di Ilicic, che al momento, correggetemi se sbaglio, sbaglierò, 349-238-6666 WhatsApp vocali, 800-24-0024 le telefonate, che è Ilicic in questo momento il più devastante giocatore della Champions League. Questo dentro al Mestalla, fuori dal Mestalla la follia che Filippo Maria Ricci ieri ci aveva lasciato intuire. Sono qui sia Pierluigi Pardo, che ha raccontato la partita per Canale 5, che Filippo Maria Ricci, di nuovo convocato. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio. E ci sono molte altre notizie oggi da commentare, sempre che intrecciano l'Italia e la Spagna, perché è notizia di ora: la Roma non può partire per Siviglia perché l'aereo non ha il permesso di atterrare. Il Getafe, e questa è notizia di ieri, dice: a Milano a giocare non veniamo. Quindi adesso che succede? Adesso bisogna capire se il mosaico può stare in piedi o se queste tessere che non si incastrano possono farlo crollare, perché il punto è questo. I temi di discussione sono molti, comincia Filippo. Allora, io stamattina ho parlato col presidente del Getafe e secondo me lui ha fatto un discorso assolutamente logico. Dice, noi siamo in Spagna e il governo ha vietato i voli dall'Italia alla Spagna e non viceversa, perché si scrivono anche delle cose inesatte. Per il momento sono vietati dall'Italia alla Spagna. Possiamo andare ma non possiamo tornare. E poi andremo in un paese dove il governo ha vietato del tutto il calcio. Dice, ma cosa andiamo a fare? Di cosa stiamo parlando? Cioè, se non si può, non si può. Dice, il calcio, c'è una frase che secondo me è molto interessante, il calcio è importante ma non è imprescindibile. Questo è il discorso. Perfetto. E poi dice, voi già avete un sacco di casi, lui è anche una persona simpatica, così dice, adesso no, ci manca solo che veniamo noi da una città con 1000 contagiati a portarvene qualcuno in più. Quella è una battuta, però per me rispecchia fedelmente quella che è la situazione. In tutto questo, poi ti lascio la parola, c'è un grande assente, che è la UEFA. Esatto, perché è l'unica che dovrebbe parlare, perché può parlare il presidente del Getafe, io, te, Pierluigi o Percassi o chi volete voi, però se l'UEFA dice si gioca e questi dicono non giochiamo, allora mi sembra evidente che il castello dell'UEFA a questo punto potrebbe crollare, non solo per quanto riguarda le coppe, Pierluigi. Sì, ma infatti qui la situazione, l'eccezionalità della situazione mi pare che vada molto al di là del calcio, ma questo è quasi banale dirlo. Sì. E manca completamente un coordinamento europeo a livello di politica generale, politica complessiva, diciamo, la P maiuscola e politica sportiva. Quindi è assolutamente questo. Il ragionamento del presidente del Getafe non fa una piega dal punto di vista di logica, sia sull'ambito diciamo dell'importanza della salute, ovviamente, che vale di più di una della competizione sportiva, sia sul discorso, direi quasi sul sillogismo. Insomma, se l'Italia in questo momento è un'area protetta nella quale non c'è spazio per giocare a pallone, perché uno dalla Spagna dovrebbe venire a giocare a pallone in Italia? Quindi è chiaro che ci si espone a un rischio enorme. Detto questo, siccome io credo che il problema sia un problema complessivo, purtroppo, sì. Purtroppo, perché tutti i dati dicono che quello che sta avvenendo in Francia, in Germania e in Spagna in questi giorni è simile proprio dal punto di vista numerico e dal punto di vista delle dinamiche a quello che succedeva una settimana fa in Italia. Insomma, io credo che serva un coordinamento di politiche europee a livello sanitario e a livello poi sportivo. E a livello sportivo. Perché ti aggiungo un tassello, poi diamo un'occhiata anche a quello che abbiamo visto dentro al Mestalla che tu hai raccontato ieri sera, perché anche quello è cronaca e interessa alle persone. Aggiungo un tassello che è questo, ne parliamo dopo, sarà il nostro ospite Gianni Petrucci, ora presidente della FIPMA, ex presidente del CONI, ex commissario della Federcalcio, ex molte cose, uomo importante della politica sportiva italiana. Domani Milano Basket doveva giocare con l'Olympiakos greci, ma non si giocherà questa partita, è stata rinviata a data da destinarsi in campo neutro, quindi si tratta di capire tutto questo, però domani questa partita non c'è perché l'Olympiakos non viene a Milano. Che è una delle soluzioni che propone anche il Torres, il presidente del Getafe, dice rinviamola e spostiamola. Poi dopo lui aggiunge, dice poi bisogna vedere se troviamo un paese che ospita due squadre che arrivano da due, tra virgolette, zone rosse. L'Olympiakos, io ci aggiungerei un'altra cosa però, è che stasera c'è City-Arsenal, non si gioca perché l'Arsenal ha giocato contro l'Olympiakos e il presidente dell'Olympiakos ha dato positivo al coronavirus e quindi i giocatori dell'Arsenal sono finiti in quarantena. Però teoricamente ci sarebbe Wolverhampton a Olympiakos. E la UEFA spingeva perché si giocasse, cioè l'intreccio, come dice Pier, ormai è europeo, non possiamo far finta di niente. Ma l'intreccio è incredibile, cioè l'intreccio, cioè, stasera c'è, ragazzi, Liverpool, è la tempesta perfetta, nel senso che al di là di quelli che sono gli aspetti poi legati alla mortalità reale delle persone, questo virus ha un elemento di viralità talmente clamoroso per cui per la vecchia regola dei gradi di separazione, per cui ognuno di noi attraverso poche persone può conoscere qualsiasi altro cittadino del mondo, attraverso questo semplice passaggio poi succede quello che raccontava Filippo, perché sì. Quante persone ha visto il presidente del Wolverhampton? Quante persone ha visto magari un leader politico, ce ne sono ormai di positivi anche in altri paesi? E quindi si crea un meccanismo che è veramente infernale, e a questo punto la soluzione deve essere una soluzione europea, cioè o si decide, però questo devono decidere ovviamente gli scienziati, che si prova a tamponare, oppure si chiude tutto, tutti chiudono tutti, ci vediamo fra due mesi e cerchiamo di far passare ma bisogna decidere, però ci vuole uno che prenda la responsabilità di decidere, e ripeto, non può che essere chi governa a questo punto a livello internazionale questi giochi, non solo il calcio. Diamo un'occhiata invece alla serata del Mestalla, perché anche questo è un fattore di cronaca. Dicevo, dentro quello stadio una stella assoluta, l'Atalanta e Ilicic in quell'Atalanta. Fuori dal Mestalla, Filippo, quello che ci avevi anticipato, e io sinceramente fino a quando non l'ho visto non ci credevo, però poi ho visto le immagini. 3.000 persone, però attenzione, mi piace ripetere questo numero, 3.000 persone ieri fuori da Mestalla, 3.000 persone che oggi da Madrid vanno a Liverpool. E stasera saranno ad Anfield insieme ad altri 51.000 più o meno, quindi 54.000 persone ad Anfield stasera per Liverpool Atletico Madrid. E allora però, cioè, capisci che è un'incongruenza. Se vuoi torniamo a Mestalla, ieri comunque hanno aspettato l'autobus in 3.000. Ricordiamo, prima morte per coronavirus a Valencia 13 di febbraio, quindi un mese fa, e questi ancora si permettono, no, di andare lì in 3.000 tutto a posto. Ieri hanno fatto anche i loro giochi pirotecnici, no? Ve l'avevo segnalato in diretta perché erano alle 2 quando ci siamo sentiti noi, un sacco di gente lì per questo gran botto, per questa mascletà che, no, diciamo, è una festa che c'hanno, e allora lì, va benissimo. E allora perché lasciarli fuori dallo stadio? Allora vale tutto, facciamo entrare. Appunto. Allora è meglio, perché poi dopo io adesso vorrei sapere anche cosa ne pensa poi Piero, cosa ne pensi tu, perché poi c'è un'altra cosa, a me il calcio a porte chiuse non mi piace. Vabbè che come fa a piacere a qualcuno, cioè. E qua i calciatori si sono lamentati a gran voce, hanno detto noi così non vogliamo. Anche LeBron James, che non è proprio l'ultimo arrivato, ha detto io senza pubblico non gioco. Sì, e però ha ragione, ha anche detto, poi parliamo, cioè, anche di NBA, ci colleghiamo con gli Stati Uniti perché anche lì pare si giochi a porte chiuse. Ha anche detto però se dobbiamo farlo lo facciamo, è chiaro che a nessuno sportivo piace. È brutto, cioè vuol dire ieri sera, dopo un po' la curiosità di sentire quello che si dicono, che è divertente, un po' sembra un po' da pettegoli, sì, no? Abbastanza divertente, però una volta, due, abbiamo visto Juve Inter, abbiamo visto ieri sera Valencia Atalanta, adesso basta, cioè, a me non piace così, poi io lavoro e lo faccio e sì, non c'è come problema, tutti noi, come tutti noi. Invece quello che abbiamo visto dentro quello stadio, che Pierluigi Pardo e Fabio Caressa, che abbiamo sentito ieri, hanno raccontato all'Italia, molto attenta peraltro e anche molto divertita, perché è così, perché questa Atalanta è una meraviglia. Se dico che Ilicic oggi è il più devastante giocatore di calcio della Champions League, o di quel che ne resta, per Luigi. No, dici bene, è chiaro che la partita di ieri cambia tutto anche in termini, secondo me, proprio numerici e di reputazione internazionale, perché da ieri l'Atalanta è nei quarti di finale di Champions, perché Ilicic ne ha fatti 4 dopo averne fatto una all'andata. E quindi insomma la situazione si sta completamente evolvendo in positivo. È un giocatore meraviglioso. Io poi devi sapere che ogni volta che gli fa qualcosa ricevo un messaggio da Cassano, ma da mesi, che in tempo reale mi dice è più forte di tutti, ma guarda che cos'è, eccetera eccetera. Beh, insomma, è difficile dargli torto. È un giocatore in questo momento veramente devastante per continuità di rendimento, cioè per la qualità e per la quantità delle cose che fa, perché comunque è arrivato a 21 gol stagionali, 23 con la nazionale. Ah, è pazzesco. Sì, 14 gol del 2020, e quindi questi sono numeri incredibili, ma a questi numeri si unisce anche una classe straordinaria. Voglio dire, unisce certi colpi, guarda, faccio un mix, unisce il colpo di genio che tu vedi nel grande giocatore tecnico tipo Dybala, tanto per citare l'esempio di Juve Inter, alla continuità di rendimento di chi, per esempio, come Ciro Immobile sta cercando di battere il record di Higuain. A me un pochino ricorda l'attuale, magari non per molto ancora, allenatore del Real Madrid quando giocava, certe volte. Sì. Però è diverso, più una posizione più avanzata. Più avanzata, no? Certo. Sì. C'ha l'eleganza, perché sono alti, c'hanno quel tipo di eleganza. Sì, può essere quello. Però cos'è Ilicic, cioè, se vogliamo, che è peccato che non, il talento c'è sempre stato, non sempre stato continuo, cioè quello che ha trovato adesso è la continuità. Bravo Filippo, esatto. Quello fa la differenza. Non è più un ragazzino. Gli è mancata questa un pochino prima, cioè, se faceva così 10 stagioni. Avesse avuto quella, Pierluigi avrebbe giocato stabilmente vicino a Messi nel Real Madrid, nel Barcellona o dove ne hai voglia tu, in qualunque squadra del mondo, no? Sì, assolutamente sì, ha dominato la serata ed è un giocatore incredibile, appartiene alla categoria di quelli che migliorano col passare del tempo. C'è molto di Gasperini ovviamente nei meriti, ma c'è soprattutto molto di lui, perché poi alla fine insomma, il responsabile ultimo in positivo e in negativo dell'evoluzione di una carriera è sempre il diretto interessato. Lui è un giocatore straordinariamente, secondo me, applicato, cioè è veramente un mix di cose che in questo momento ha trovato la congiunzione astrale perfetta, perché i colpi di talento c'erano sempre stati, questa sua atipicità di essere appunto alto, un po' dinoccolato, ma al tempo stesso tecnico, molto bravo in campo aperto, un mix di velocità e potenza importante, cioè, tutta questa cosa acquisti da qualche tempo fa potevano farlo sembrare un giocatore un po' ancora incompiuto, no? Sì. E oggi invece ha trovato proprio quella quadra che lo rende assolutamente irresistibile, atipico e devastante. Che quindi, poi, insomma, che poi, allargando il discorso, l'Atalanta ricorda svariate squadre di underdog del passato arrivate molto molto in alto. Mi viene in mente ad esempio proprio il Valencia, che arrivò ad un passo dalle grandi orecchie, due finali, no? Appunto. Due finali. Cioè, ricorda qualcosa di l'Atalanta, ora il Valencia, Filippo ne sa più di me e ti racconterà una vittoria nelle ultime 8 partite, mille problemi, contestazione eccetera, quindi sicuramente c'è un elemento di debolezza anche di congiuntura del Valencia in questo momento, ma l'Atalanta in queste due partite li ha veramente presi a pallate. Cioè, ieri io ero abbastanza convinto della qualificazione dell'Atalanta, ma la maturità, la tranquillità con la quale ha gestito la situazione, e attenzione, l'ha gestita senza gestire, mi spiego, cioè è scesa in campo col suo atteggiamento, si è messa subito a fare la partita, ha fatto quello che voleva, cioè, ha fatto veramente quello che voleva e l'ha fatto alla sua maniera. Siccome non è una squadra capace di gestire la situazione, e qualche errore c'è stato anche ieri, perché sicuramente se guardiamo i gol, se guardiamo i gol del Valencia, è molto spagnola, è molto spagnola l'Atalanta, sì, da questo punto di vista. Infatti io dico, secondo me ha gestito, diciamo, senza gestire. Sì, guardando al futuro, ecco, io sono a concede tantissimo. Questo è l'unico dubbio che io ho sull'Atalanta, perché comunque ieri ha preso 3 gol dal Valencia, all'andata ne aveva preso 1 in più, però aveva concesso 2 occasioni enormi. E allora, questo può essere pericoloso contro una squadra più solida del Valencia, che come diceva Pier, certo, appunto, non vince quasi mai, è una squadra gravemente involuta. Ieri aveva un difensore centrale, quello era Diakabi, e gli ha aperto le porte, no, all'Atalanta già dopo 87 secondi. Quindi io per l'Atalanta, diciamo, per sognare ancora di più, deve registrare un pochino questa, diciamo, ecco, questo giocare a viso aperto. L'Atalanta vive così, Pier, lo so. E infatti io poi sono spagnolo, quindi sono entusiasta, però è chiaro che si rischia anche un pochino, insomma, contro un avversario solido, diciamo, può pagare un prezzo più alto, ecco. Sono curioso di sentire i nostri ascoltatori su temi calcistici e su temi sportivi, su temi che riguardano in questi giorni così complessi lo sport. 800 24 00 24. Vi ripeto le ultime notizie, cioè la Roma non ha il permesso di atterrare a Siviglia, dove stava andando per giocare giovedì sera, domani sera contro il Siviglia. Il Getafe non ha alcuna intenzione di venire a Milano, dove domani dovrebbe affrontare l'Inter, e dunque siamo qui a 30 ore mal contate dall'inizio di queste partite e siamo in sospeso. Al momento non ci saranno e l'UEFA al momento rimane zitta. Quanto possa proseguire questa situazione non lo so, o meglio lo so benissimo, fino a domani credo sia la deadline, queste due partite, che ne dite? Sì, sì, sì, il Getafe aveva già ottenuto il permesso dalla UEFA di viaggiare in giornata, stava solo 12 ore a Milano, sì, però sì, sì. Quindi, come ha fatto Real Madrid di basket la settimana prima, ricordiamo. Per cui ancora si può ancora risolvere, però per me le parole sono chiare, insomma, voglio dire, in questo momento che senso ha tutto questo, insomma, quando comunque in Italia c'è una situazione, si dice alla gente di stare a casa, però poi dopo si organizzano. Quello che diceva prima, che mi ha detto stamattina il presidente del Getafe, diceva: vabbè, adesso chiediamo un permesso speciale, ma perché ce lo devono dare? Lo danno a noi, lo devono dare al Siviglia, alla Roma, al Napoli e all'Inter, no? Dice: allora più non è più un permesso speciale. E infatti alla Roma il governo spagnolo il permesso non gliel'ha dato. Mi sembra semplice, perché lui diceva: ma poi non è una cosa seria. Se chiunque va lì gli danno permesso, allora non ci siamo. Allora, cosa fai a fare un decreto di questo tipo, gravissimo, assolutamente, diciamo, anomalo e inconsueto? Chiaro, non si può giocare. Senti, ma so. Potrebbe, che poi in tutto questo c'è, e torno al punto di partenza, siccome non c'è stato allineamento dall'inizio, adesso è veramente molto difficile, perché tu in astratto potevi pure, se la partita fosse fra 15 giorni o fra una settimana, tu avevi il tempo, secondo me, per trovare una sede, o comunque per trovare un tipo di situazione in cui i giocatori e tutto lo staff, 40 persone che partono, fanno il tampone, si gioca a porte chiuse, partenza e ritorno in giornata, insomma tutto quello che hai fatto lo potevi fare, no? Cioè, se fosse da qui a qualche giorno, se ci fosse una comunanza anche delle politiche di contrasto di questo coronavirus. E Luigi, non so se sia possibile, ma è solo un'opinione personale che ti chiedo, che chiedo anche a Filippo, pur parlè, la chiedo anche ai nostri ascoltatori, 349-238-6666, WhatsApp vocali, 800-24-0024, telefonate. Ma se venisse presa questa decisione, europei adesso no, è chiaro che devi dirlo adesso, poi magari la situazione è diversa, però le decisioni le devi prendere subito. Adesso no, li spostiamo di un anno, li spostiamo, vediamo, troviamo un'altra soluzione, ci si ferma e poi si riprende con calma lo svolgimento delle competizioni nazionali ed internazionali quando ci saranno le condizioni. Sì, certo, però questo tipo di approccio, che in questo momento, anche per quello che noi stiamo vivendo dal punto di vista emotivo in Italia, no? in queste ore, nel senso che si sta andando sempre di più verso, io poi vedo anche, sentivo stamattina Spezia con Paolo Mieli, cioè mi sembra che ci sia sempre di più anche nel nostro paese, da parte di una buona parte dell'opinione pubblica, la consapevolezza che forse è meglio fermarsi 15 giorni, 20 giorni veramente, e cercare di debellare il problema per sempre, o quantomeno di rallentarlo molto, piuttosto che questa politica di stop and go che è stata fatta fino adesso con progressive, cioè con l'illusione che la cosa fosse meno grave di quello che in realtà è, e che invece adesso ci sta creando così tante inquietudini. Però appunto è parte del mondo occidentale soprattutto del mondo occidentale, ma del mondo in generale, questa interconnessione totale, per cui è molto difficile, secondo me, come dice Filippo prima, è incredibile. Se tu pensi che ci stanno i 3.000 stasera che vanno dalla Spagna all'Inghilterra per una partita di calcio, veramente di sbagliarmi. Ma perché? Ma perché fuori dallo stadio ieri tutti quelli che aspettavano, sì, ma quelli almeno cioè, sono stati a casa loro, così, ma questi ho capito, Filippo, a casa loro, non a casa loro, cioè a me sembra comunque una, ma sui giornali che si dice? Cosa dice l'opinione pubblica spagnola? No, tutto normale, va bene così? Sì, praticamente sì, cioè, okay. Anzi, c'è chi ha detto che grande, dice, grande supporto da parte dei tifosi, perché siamo ancora così. Cioè, no, la gente non ha capito, perché voglio dire, nonostante, forse perché qui i casi sono ancora meno, ma comunque stanno dilagando. Cioè, noi oggi a Madrid abbiamo i bambini a casa da scuola, finalmente. Allora benissimo, noi abbiamo i bambini a scuola, però poi 3.000 da questa città prendono parte e vanno a Liverpool. Ma per favore, cioè, non è che appunto bisogna darsi una regolata tutti quanti e decidere, insomma, non è che noi italiani siamo dei pazzi, capito? Però intanto i casi aumentano, adesso stanno, come diceva Piero all'inizio, se guardi i numeri sono esattamente gli stessi, soprattutto in Germania, no? Di crescita del virus. Sì. E allora dico, cosa stiamo facendo? Cioè, ieri Lipsia Tottenham porte aperte, stasera sì. Paris Saint Germain Borussia Dortmund porte chiuse, ma Mbappé col virus. Adesso Mbappé convocato, capito? Perché poi ci sono anche Mbappé ha fatto per la cronaca ha fatto le prove che doveva fare raffreddore. Il meccanismo di quarantena è giustamente talmente rigido, cioè se si segue quello che ci dicono gli scienziati, cioè la quarantena e l'isolamento. Io mi ricordo la prima volta che Burioni in una convention mi parlò del coronavirus, era metà gennaio, io lo intervistavo e lui mi disse: qui la soluzione è l'isolamento. Capisci che l'isolamento, per come siamo abituati a vivere noi, per quello che è il presupposto filosofico del mondo occidentale, che è basato invece sul massimo della interconnessione, in Spagna ancora di più. E in Spagna ancora di più, certamente. Poi le variabili ci sono, poi magari qualcuno spera nella vita all'aria aperta. Sappiamo che l'aria aperta può essere migliore perché il virus si deposita di meno sicuramente negli spazi all'aperto che negli spazi chiusi. C'è la possibilità, ma siamo nell'ambito della possibilità, quindi, che il clima possa aiutare. C'è la possibilità che ci sia una sorta di evoluzione nei vari passaggi tra un individuo e l'altro, che il virus diventi più buono. Questo è quello che ho sentito dire da Burioni, dagli altri scienziati, ma sono tutte possibilità. Però è ovvio che se l'aspetto che c'è in questo momento è il contagio, per cui appunto adesso Mbappé credo sia negativo, no? Negativo ai test, aveva mal di gola, influenza di se fosse al primo giocatore positivo, se tu devi seguire quello che ti dicono gli scienziati, la squadra deve andare in quarantena. Sì, certo. E se va in quarantena la squadra non c'è più. La squadra ha giocato contro quell'altra una settimana prima, quindi tra 5 giorni non c'è più nessuno che può giocare. Sempre per quel meccanismo di interconnessione dei gradi di separazione che ci sono nel nostro mondo. Per cui qui ci vuole uno che prende in mano la situazione a livello europeo. E in questo momento, se quello che dicono gli scienziati è vero, l'unica possibilità che abbiamo è che l'Europa si ferma per un mese. E vediamo cosa dire. Ci vediamo a aprile, ci vediamo a maggio. Però... poi dopo, ti ho detto, il calcio riprenderà, ti dico, quando si dovrà. A un certo punto si dice: bene, stiamo tutti bene, a che punto siamo? Bene, siamo qui, cosa manca da fare? Beh, facciamo questo o quest'altro. Poi ci sono anche le varie. Salta l'Europeo e finisce la Serie A, la Liga, ci dedichiamo al prosieguo della stagione normale senza assillo di date, eccetera. Se ci dovesse fare lunghi, faremo l'anno prossimo una stagione. Adesso è chiaro che stiamo facendo tanta calcio. Faremo una stagione in cui finiremo i vari campionati, finiremo le competizioni europee. E faremo si può fare tutto, ci inquieta l'incertezza, tutto il resto si può fare. Noi alla fine noi vogliamo il calcio, no? Per cui se adesso a giugno noi abbiamo il finale della Serie A e la fine della Champions League invece che l'Europeo, ci va bene lo stesso, non so come dire, cioè, no? A livello di spettacolo l'importante è che si sia tutti bene, capito? Quello che poi ci sarà a giugno, se c'è un Europeo o c'è appunto una finale di Champions League invece che farla quando è prevista, il 31 maggio mi sembra, la facciamo il 26 giugno o il 7 luglio, non succede niente. Intanto Filippo, io ti mando a lavorare perché è uscita adesso un'agenzia, l'avrai anche vista, la Spagna valuta l'ipotesi di fermare il campionato di calcio dopo che la Federazione Iberica ha decretato lo stop completo a tutti i campionati esclusi primavera e seconda per esplosione eccetera. Riunione urgente questo pomeriggio. dice sì, mi è arrivato prima il messaggio, però perché stanno ancora presenti. Adesso hanno salvato esatto, i primi due livelli. Ieri ne hanno salvati 4 a porte chiuse, adesso ne hanno salvati 2. Però chiaro, la situazione è in continuo movimento. Adesso alle 4:30 vado a sentirmi, ecco, un po' in barba, speriamo anche alle regole. Non saremo in tanti, però vado a sentire di nuovo quello che ha da dire il presidente del Getafe. Vediamo. L'ultima cosa sulla UEFA. All'inizio la UEFA cosa ha fatto? Ha fatto per me in maniera corretta, ha detto ci atteniamo alle disposizioni governative, ok? Uh-huh. Però ieri è mancato proprio questo, perché, ed è quello che diceva anche il Torres, perché se lui dice ma se un paese come la Spagna ha proibito i voli dall'Italia alla Spagna e l'altro paese, l'Italia, ha proibito proprio il calcio, allora le disposizioni governative parlano chiaro, sì. Non si può fare. Sì, sì. Certo. Ciao non Filippo. Tono, senza non parla romanesco, però più o meno è questo. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Io voglio sentire Mauro da Bergamo. Buongiorno al volo. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Volevo soltanto far notare la prestazione di Caldara di ieri sera, che è andato via l'Atalanta, è scomparso, è ritornato e sembra che stia ripigliando. Fa benissimo a farlo notare, perché ha giocato tra l'altro, secondo me, molto bene anche nella partita di andata contro il Valencia, e fa bene a sottolineare questo, è la prima cosa che si diceva, cioè, quando ho visto fare posso dire una cosa, l'ho detto anche ieri in diretta, ci sono delle cose che vanno sottolineate di ieri, l'adesione praticamente totale che c'è stata all'appello del sindaco, della squadra. Ieri veramente Bergamo ha vinto in campo, ha vinto fuori, c'è stata questa iniziativa dei ragazzi della curva, poi credo anche dell'associazione tifosi Atalanta di dare in beneficenza all'ospedale a Giovanni XXIII i biglietti già pagati, la stessa cosa credo che abbia fatto anche le tifosi della Roma, anche le tifosi del Milan, per quanto riguarda Milan-Genoa, ce ne saranno molte altre, mi scuso con quelli che non ricordo, ci sono mille iniziative estemporanee che stanno nascendo, ecco, veramente poi ogni tanto insomma, un po' di speranza sul genere umano c'è, e ieri veramente i tifosi dell'Atalanta hanno vinto a 360 gradi, questo è una cosa bellissima in un momento complicato. Allora, Paolo da Mantova, in un attimo, poi abbiamo la borsa e un appuntamento con Gianni Petrucci. Dica. Sì, sarò rapidissimo. Mi associo anch'io alle valutazioni fatte sulla tifoseria, perché molto spesso la tifoseria viene, per pochi magari imbecilli, viene considerata in modo negativo, invece questa è la dimostrazione che diciamo la buona parte del tifo invece ragiona in modo molto diverso. Soltanto la valutazione sull'Atalanta fatta da uno juventino quale io sono. Impressionante secondo me ieri sera Gasperini, che in una partita nella quale partiva dal 4-1 ha tolto De Ron per mettere Zapata. Uh-huh. Impressionante secondo me Freuler, un giocatore veramente di continuità, ieri sera ha fatto anche due o tre, come dire, uscite interessanti dal punto di vista tecnico, tra cui il passaggio mi sembra l'ultimo gol di Ilicic. E un'ultima cosa, a mio modo di vedere, l'unico difetto, l'avete già anche detto, l'ha detto anche Pardo, mi sembra, prima gli ospiti, la fase difensiva. Su alcune seconde palle, visto che il Valencia è andato con una certa velocità facilmente in area, e questo secondo me potrebbe essere un rischio. E questo è vero, però l'impressione è che l'Atalanta sia bella, sia proprio così, cioè non so se è qualcosa su cui lavorare o qualcosa ieri, da dire. Vive in quella maniera lì, e mi sembra sia tanta roba. Ragazzi, fermiamoci un attimo per la borsa, torniamo. Noi ridevamo, me compreso, quando la Cina ha messo insieme 50-100 escavatori per costruire un ospedale in 15 giorni. Oggi piangiamo. La Spagna vedrai che farà la stessa fine. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, come T e V ho anticipato prima i nostri ascoltatori, naturalmente saluto e ringrazio Gianni Petrucci, presidente della FIP, ma dirigente di lungo corso dello sport italiano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno presidente. Quanto mai opportuna la sua presenza, anche perché si è deciso pochi istanti fa che le gare di Eurolega ed Eurocup da disputare in Italia si giocheranno all'estero fino al prossimo 11 aprile. L'ha deciso il direttivo dell'Eurolega per fronteggiare il diffondersi del coronavirus dietro fronte repentino rispetto a quanto confermato fino a ieri. Milano non giocherà domani qui contro l'Olympiakos, ma giocherà venerdì a Berlino. Questo è stato deciso ora. Beh, rimane il problema di fondo, Presidente. Lo sport dovrebbe, cioè sarà il caso che prima o poi tutto si uniformi, perché così diventa molto difficile andare avanti. Sto parlando di basket, di calcio, di qualunque cosa. Ma io stamattina, già ieri, ho lanciato l'allarme. Queste coppe europee, io parlo per il basket, ma ovviamente parlo anche del resto. L'avete ricordato voi, la mia esperienza, nessuno mi vieta di parlare di tutto. Ma per voi sono regolari tutti questi cambiamenti? Partite annullate. E Schio è stata annullata la partita oggi che sta a Praga. Cioè, oggi queste finzioni sono finzioni internazionali, per cui l'Italia si ferma dappertutto, ferma lo sport e dà un esempio. Vedo che anche la Spagna e la Francia stanno facendo altrettanto. La Roma si sta, non si sta, forse si farà, la Roma calcio. Ma queste finzioni internazionali che devono sempre dimostrare che lo sport è superiore a tutto, che è sacro inviolabile, non è vero. Lo dicevo quando era al calcio, lo dicevo quando era al CONI, 14 anni al CONI. Cioè, è una situazione insostenibile. Il basket è uno sport di contatto, ma come si può pensare che se si ferma in una nazione, il calcio però quella nazione può partecipare alle coppe europee, perché perché se poi parla Petrucci e l'Eurolega si offende, ma si offenda. Io dico quello che penso e siccome me lo posso permettere parlo. Sì, non c'è dubbio, deve farlo, ma riguarda non solo ovviamente il basket ma tutto quanto. A questo punto quanto servirà prima di sentire, ora abbiamo sentito la voce dell'Eurolega con questa soluzione che mi sembra ancora interlocutoria, nel calcio dobbiamo sentire la voce dell'UEFA, perché al momento le dice la Roma gioca, non si sa perché non gli danno il permesso di atterrare a Siviglia, quindi non lo sappiamo ancora. Il Getafe non vuole venire a Milano. Io credo che si debba prendere una decisione una volta per tutte, perché così è chiaro che se le squadre non vanno a giocare il castello crolla. Sì, perché il castello crolla, ma è più importante la salute del castello. Certamente. Cioè, non è che il sacro soldo deve essere inviolabile, ma noi siamo anche dirigenti sportivi, ma anche padri di famiglia. Abbiamo figli, abbiamo nipoti. Cioè, ma è possibile che non ci si renda conto del pericolo che stiamo attraversando? Si dice epidemia, ma forse dal greco passe, e questa è anche pandemia. Cioè, ma è tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. Però le coppe europee di basket, io parlo per basket, ovviamente rasento anche altri che non vogliono sentire la mia parola, ma io ho seguito a parlare, sono finzioni. Ma che regolarità? Una squadra che deve giocare in casa non può giocare in casa. Però se gioca in casa, eccezionalmente adesso nemmeno più, deve giocare a porte chiuse, si gioca all'estero, e quindi è regolare? Non lo so, ma lo dice Petrucci, ma dovrebbe dirlo tutti. Ma gli scienziati, avete sentito lo scienziato del sacco quello che dice? Io non sono un virologo, sono uno scienziato, però insomma non penso proprio di essere imbambito al 100%. È una situazione insostenibile. La sacra inviolabilità dello sport è un discorso che si faceva, che si fa. Abbiamo un preolimpico noi a giugno in contemporanea con l'Europa di calcio. Sì. Beh, l'Europa di calcio si comincia già a vociferare che forse potrebbero, non lo so, mentre no, il preolimpico è sacro. Ma perché non si dice la verità? Avete visto che già i giornali oggi, ieri, hanno detto che cominciano ad esserci dei dubbi. Certo. Però su quello dubbi non ci sono mai. Ma lo dici perché non sei tu presidente De Coni? Lo dico perché sono uno che pensa di ragionare. Pierluigi, il quadro che emerge è quello di un'incertezza con cui abbiamo esaurito la possibilità di fare i conti, direi. Assolutamente, guarda, hai detto benissimo, nel senso che io, lo sai, non mi piace puntare il fucile, perché questa situazione qui è veramente una situazione inedita, nemmeno fino in fondo i virologi, nemmeno gli scienziati hanno certezze su come si evolverà nelle prossime settimane questo virus, anche proprio in termini di passaggio da un essere umano all'altro, no? Quel discorso che facevamo prima, e nessuno sa, ed è anche ovvio che è una cosa che è iniziata 20 giorni fa nella nostra testa, cioè il primo caso in Italia è del 21-22 febbraio, quindi io lo capisco perfettamente che è una cosa, cioè, paradossalmente una guerra tu la puoi immaginare, la puoi prevedere, la puoi quasi programmare. Noi siamo fortunati, facciamo parte di una generazione che non ha mai vissuto un conflitto mondiale, non si è mai trovato in una situazione di quel tipo. Questa è una roba veramente che ha un impatto tremendo. tremendo, terribile dal punto di vista poi pratico. Poi è chiaro che se facciamo tutti i bravi, anzi ripetiamolo perché oggi non abbiamo ripetuto, se facciamo secondo me i bravi, secondo me, secondo gli scienziati, nelle prossime 2-3 settimane ci portiamo molto avanti, facciamo un passaggio decisivo, e so benissimo che questa cosa per tante persone che devono lavorare, che fanno fatica, cioè non è semplice, è molto più facile per chi ha una bella casa e un bello stipendio a prescindere, quindi questo va detto, e poi ci vorranno degli aiuti per chi questa situazione qui, questo è indiscutibile, però è l'unica possibilità che abbiamo, e le parole di Petrucci mi sembrano di assoluto buon senso. Qui la difficoltà è oggettiva, perché le autorità politiche e le autorità sportive hanno dovuto leggere nel giro di 20 giorni una situazione inimmaginabile. Sì. Noi una settimana fa si tratta di fare un passo un po' più lungo a questo punto, no? Magari un po' più lungo e magari orientato al pessimismo, che tanto male non fa, si fa sempre in tempo poi a tornare ad essere, essere ottimisti. Presidente, io voglio chiederle ancora questo invece, sull'attività quotidiana, qual è l'orientamento in questo momento della... Ma abbiamo difficoltà, io ho l'esempio di Roma Basket, che Toti, non avendo un campo di proprietà e le palestre sono chiuse, non si può allenare, le regioni danno certi decreti, altre regioni no, per cui c'è un caos totale, quindi si ferma tutto, non succede niente. Ma se voi pensate a quello che sta facendo il governo, che chiede uno sforamento di miliardi, cifre che toccano anche cifre degli Stati Uniti d'America, ma come si può pensare che il basket, spero il calcio si offendano, spero di no, il calcio però deve andare avanti ugualmente, perché il CIO, il preolimpico, punto interrogativo, perché oggi la situazione è questa, ha detto bene Pardo, se la situazione è questa non dipende né da Petrucci né da altri dirigenti, e allora siccome ci sono gli scienziati e il governo agisce secondo quello che ci dicono, sentendo gli scienziati, fermiamoci. Ma se non si può uscire di casa, se si esce di casa si deve uscire singolarmente. Ma perché? Ma poi non vale solo per l'Italia. Noi stiamo nella situazione degli altri paesi, è una situazione che eravamo noi italiani 15 giorni fa. Si sta allargando a macchia d'olio dappertutto. Verissimo, però avrà visto le immagini di ieri sera di quello che c'era fuori dallo stadio di Valencia e avrà sentito di 3.000 tifosi del Real Madrid che vanno, dell'Atletico Madrid che vanno a Liverpool, quindi la percezione evidentemente è ancora diversa e distorta. Le chiedo ancora una cosa, non di fare l'insider, ma c'era un'unità e uniformità di valutazioni l'altro giorno quando vi siete parlati con Maragò, voi presidenti delle federazioni sportive italiane? Ma sì, perché peraltro noi già avevamo deciso, e non è che si è deciso dopo quella data, noi avevamo già deciso di fermare il campionato. Gravina aveva detto quello che poi andava a fare il giorno dopo, ma è chiaro che è tutto lo sport, è chiaro che il CONI deve essere sempre centrale, ma noi già avevamo deciso autonomamente il giorno prima. Cioè, oggi non si tratta più di Malagò, di Petrucci, di Gravina, si tratta del buonsenso. Per cui nessuno si deve mettere la penna sul cappello a dire l'ho detto prima. Beh, noi siamo stati antesignani, questo penso che sia una considerazione ovvia. L'ho detto ieri che le coppe si dovevano fermare, non lo dico oggi. E oggi è successo, per quanto riguarda il basket, la Coppa dei Campioni femminile, la partita di Schio contro la squadra di Praga si è sospesa. E quindi è inutile che seguitare a sospendere giornalmente oppure giocare in campo neutro. In campo neutro si falsa tutto, senza pubblico a che serve? A dire che le coppe sono terminate, complimenti, andiamo avanti così. Grazie Presidente, a presto. Grazie a voi. Grazie davvero. Ciao, Gianni Petrucci, Presidente della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro. Traffico, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Beh, c'è già collegato Simone Sandri dagli Stati Uniti, lo saluto con piacere. C'è anche Gianluca ciao Simone. Buon pomeriggio, ciao, Carlo. Ciao. Sentiamo anche Gianluca da Reggio Emilia e poi parliamo di quello che sta per succedere negli sport americani. Ne abbiamo già accennato prima. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Forse tra le pochissime cose positive, questa idea dei playoff, spero davvero possa andare avanti. Saluti per la playoff nel calcio, Serie A al calcio. Giro d'opinioni Pierluigi e poi Simone. Io faccio abbastanza fare quello che volete, posso essere molto sincero. Sì, i playoff sono carini, ma insomma voglio dire, sì, cioè, sono un'idea sfiziosa, no? Sì. Però è anche vero che da un punto di vista chiaramente di regolarità tu prendi una classifica, oltretutto non alla fine di un girone, ma con alcune squadre che hanno giocato contro altre due volte e contro altre una, cioè è chiaro che anche questa si presta a mille valutazioni. Qui il tema è proprio filosofico, ed è quello che diceva Petrucci, cioè salviamoci la pelle, come cantava Ligabue, e poi vediamo. Tutti, poi vediamo, perché poi quello che ci dicono gli scienziati, che non solo ce lo dicono, ma lo vediamo, perché ieri a Codogno c'è questa notizia fantastica del primo giorno a contagi zero, perché hanno chiuso una comunità con grandissimi sacrifici, con un peso economico enorme, però dopo 16 giorni zero contagi. Guarda, questo guarda, ti fa capire che fregherà nulla a nessuno, ma ho postato una foto di un mercato che avevo sotto casa stamattina, mercato non solo di alimentari ma di pieno di gente, è venuto fuori l'inferno, e quindi proviamo a capire che cosa dobbiamo fare, facciamolo tutti. No, ma infatti al di là di quello. Io ripeto siccome poi tutti abbiamo parlato in questi giorni, io non pensavo che fosse una roba così, lo dico sinceramente, quindi non ho nessun problema a dire che mi sono sbagliato, perché da quello che anche alcuni virologi dicevano sembrava una situazione gestibile così, con dei piccoli accorgimenti, invece non è una cosa gestibile. In questo momento siamo malati, come società, siamo sotto i ferri. E in questo momento sotto i ferri abbiamo bisogno di guide chiare e precise, non che giorni, vale un, se vale... facciamo le cose fatte bene, magari fra un tempo, non lo so fra quanto, ma fossero anche due mesi. Quello che serve. Simone, Stati Uniti, che succede adesso? Adesso praticamente c'è la corsa un po' al piano B, a quello che può succedere. La NBA per oggi pomeriggio ha in programma una conferenza al telefono con i proprietari NBA per decidere cosa potrebbe succedere in caso di contagi alti. L'idea di fondo è quella di spostare magari delle partite in campi neutri, in posti dove non c'è ancora un contagio alto. Ovviamente c'è l'idea delle porte chiuse, è un'idea che comunque i proprietari sono abbastanza refrattari, perché è per un puro motivo economico e per l'impatto che ha una partita NBA nei confronti di tutta la comunità, da un patto economico. L'altro giorno i Warriors, la città di San Francisco, ha chiesto se in maniera autonoma decidessero magari di giocare una partita a porte chiuse. I Warriors hanno risposto no grazie, perché è a prescindere dal loro incasso per partita singola, che si aggira sui 4 milioni di dollari, c'è un impatto economico per tutta l'area di vicino allo stadio, per cui è un per adesso non si è arrivati a questo, si è arrivati a sospendere Indian Wells, il torneo di tennis, sì, per motivi che vanno anche al di là, diciamo, dell'idea delle persone riunite in un singolo posto. Il fatto, Indian Wells è in una comunità che è Palm Springs in California, dove l'età media è molto molto alta, per cui anche quello si è deciso anche per quello, il motivo precauzionale. Per esempio, invece a Miami, il Miami Open, che è in programma il 23 marzo, sembra che sia assolutamente verrà disputato, almeno fino a questo momento le notizie sono queste. L'unica città in questo momento che ha proibito gli assembramenti di più di 250 persone è Seattle. Per adesso non ci sono eventi sportivi fino al 21 marzo a Seattle, quando ci sarà il ritorno in città dei Seattle Sounders di MLS. Non si è ancora capito che se per quanto rimarrà vigente questo decreto, però la possibilità è ovviamente che ci saranno situazioni del tipo partite a porte chiuse o partite magari in campi se vogliamo neutri, tra virgolette, sono abbastanza alte. Sì, quindi siamo ancora ai prodromi della situazione che qui invece stiamo vivendo in fase molto, molto però sentivo stamattina che comincia il coronavirus a essere un elemento anche per esempio nelle primarie dei democratici, quindi cominciano Biden per esempio ha annullato tutte le manifestazioni pubbliche, no? Sanders stesso discorso, poi magari Trump può avere, e Simone ce lo potrà confermare o smentire, un pochino più interesse in questo momento a minimizzare, a sperare che sia soltanto temporale, perché tutto sommato le cose stanno andando bene per lui fino a qualche mese fa, con le borse che volavano eccetera. Adesso è chiaramente una complicazione enorme, i democratici magari hanno più voglia di cavalcare questa situazione, sono più avvezzi a questo tipo, però poi al di là della voglia di cavalcare o no della comunicazione, c'è la sostanza. La sostanza è la clamorosa viralità di certo, questo problema. E sai bene come anche lo sport sia dal punto di vista, anche nell'immaginario collettivo, una qualcosa di estremamente importante, anche e soprattutto in America, Simone. Sì, è vero, e c'è però questa cosa da considerare, l'aspetto economico che va ovviamente al di là dello sport, non è come chiudere una città come New York in maniera totale per due settimane, ha un impatto economico non solo sulla città, non solo sugli Stati Uniti, ma proprio sul mondo, per cui sono dinamiche che sono molto abbastanza complicate da gestire, per cui l'idea di dire che si chiude tutto così è un discorso abbastanza complicato, per cui è bisogna stare anche attenti a queste prospettive, perché il crash economico che può provocare una cosa del genere è ovviamente da tenere in considerazione. Giustamente Pardo diceva che Biden nello stato dell'Ohio si è deciso di sospendere le attività, appunto anche lì le attività con troppe persone presenti. La differenza degli Stati Uniti è che ci sono comunque località dove ci sono dei sintomi più alti, località dove per esempio il clima è come in Florida, per esempio, dove il clima è più mite, dove un po' sta aiutando anche il discorso che non si sta spargendo troppo il virus, almeno in questo momento a quanto pare, per cui ci sono anche queste ipotesi che ha ventilato per esempio lo sport, l'NBA, di spostare magari degli eventi in posti dove per adesso non ci sono tanti contagi. È vero che è una situazione in divenire, per cui non si può sapere cosa succederà tra una settimana, certo. Però in questo momento si viaggia a piani B. Senti, però per chiudere, Simone, però la voce dei giocatori, leggevo prima le dichiarazioni di LeBron James, sono tutte totalmente contrarie di chiusura verso la possibilità di porte chiuse. Esatto, perché comunque è un'idea che per quanto riguarda gli Stati Uniti non si verifica l'idea di giocare a porte chiuse, noi un pochino di più ce l'abbiamo questa idea, per loro ovviamente la presenza del pubblico è una cosa un po' data per scontata. È vero che LeBron ha cambiato un po' atteggiamento rispetto alla prima risposta, quando disse anche no, questo punto. Non è l'Europa, adesso ha cambiato un po', ha capito che comunque la situazione è abbastanza seria, anche perché le alternative non è che sono tante, o giochi a porte chiuse o ti sposti o fermi il campionato, perché non è che ci sono, non per è che c'è molto altro da dire. Ma non si sa bene dove, oppure ti fermi. Certo, non è che c'è molto altro da fare. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie a Pierluigi Pardo ovviamente, grazie a Simone Sandri da New York, Claudio Schiattone il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti. Minchia, è stato una montana russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.